Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Benvenuti alla prima puntata del 2010. Un saluto in studio da Annalisa e in regia Roberto Giava. Buonasera Annalisa, buonasera al pubblico che ci ascolta. E in collegamento Alessandra. Buonasera Annalisa, buonasera cari amici radioascoltatori e ovviamente un bentornato a Roberto e un buon anno a tutti Annalisa. Certo. Perché è la prima puntata del 2010. Prima puntata del 2010, cari radioascoltatori, buon anno. Siamo, se non sbaglio, Alessandra, nella quinta stagione di Giro di Boa, corretto? Sì, esatto, la quinta stagione di Giro di Boa, ormai un programma, diciamo, un vecchio programma di Radio Alma, come il direttore probabilmente concorderà. Beh, è uno sicuramente della nuova generazione dei programmi, è sicuramente il più longevo per adesso. Ci sono programmi però della prima generazione, della prima corrente, come appunto corrente alternata, che hanno, come dire, alle spalle ormai almeno due lustri. Sì, però parliamo, io mi riferivo alla sua direzione, caro direttore. La mia direzione risale anche agli inizi del 2005, quindi fatti conti, esattamente siamo a 5 anni. Perfetto. Cari radioascoltatori, dunque iniziamo il nuovo anno con un Giro di Boa sempre al passo con l'attualità. Questa sera ci occuperemo dei tristi fatti e eventi della settimana scorsa a Rosarno, in Calabria, scene di guerriglia urbano a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, per la rivolta di alcune centinaia di lavoratori extracomunitari impegnati in agricoltura e accampati in condizioni inumane in una vecchia fabbrica in disuso e in un'altra struttura abbandonata. A fare scoppiare la protesta è il ferimento da parte di persone non identificate di due extracomunitari con un'arma ad aria compressa e pallini da caccia. Questo ha scatenato una rivolta, ci sono stati scontri con la polizia, feriti, 8 gli extracomunitari ancora ricoverati in ospedali dopo le aggressioni subite, nessuno in pericolo di vita, il bilancio degli arrestati è di 10 persone, 7 extracomunitari e 3 persone di Rosarno. Uno di loro è figlio di un esponente di spicco della cosca Bellocco e un altro ha precedenti per omicidio colposo. Dunque, cari radioascoltatori, questo è il tema che affronteremo questa sera con due ospiti. Sì, esatto, Annalisa, con due ospiti. Il primo ospite lo abbiamo già in collegamento, si tratta di Don Pino De Masi. Don Pino, mi sente? Sì, buonasera a tutti. Buonasera e anzitutto grazie per intervenire nella nostra trasmissione. Dunque, Don Pino De Masi è vicario generale della diocesi di Oppido Palmi nella piana di Gioia Tauro. Don Pino conosce bene la realtà della zona in quanto, oltre ad esservi nato, vi esercita il suo ministero. Da anni segue la situazione degli immigrati. Don Pino De Masi è anche referente per la piana di Gioia Tauro dell'Associazione Libera, associazione Nome e Numeri contro le mafie. Dunque, Don Pino, lei che lavora da anni in questa realtà e conosce bene la zona e ovviamente le dinamiche che vi agiscono, si aspettava gli eventi di guerriglia urbana che analizza e che anche i nostri amici radioascoltatori conoscono bene, gli episodi, mi riferisco ovviamente agli episodi della settimana scorsa. Sì. Che cosa è realmente successo a Rosarno una settimana fa? Ma intanto credo che covava nell'aria che gli immigrati da un momento all'altro avrebbero reagito alla situazione disumana in cui erano costretti a stare. Ecco, per capire un po' tutto il problema, io credo che dobbiamo inserirlo in un contesto di illegalità diffusa che c'è nella provincia che c'è tutta la Calabria e che c'è nella provincia di Reggio Calabria e nel territorio della Piana. Illegalità diffusa, non solo per la presenza invasiva dell'andrangheta, ma illegalità diffusa per la mentalità, per la cultura mafiosa che vince. Per cui noi abbiamo assistito un po' a due facce della medaglia. Da una parte una rete di solidarietà attorno a questi nostri fratelli immigrati. In questi anni la gente del luogo ha fatto a gara per alleviare le sofferenze, le situazioni disumane in cui però eravamo sempre noi a procurargliele, no? Quindi da una parte questa è la cosa strana. È chiaro che qui c'è stata un'assenza totale dello Stato, lo Stato ha fatto finta di non vedere, ha abdicato al controllo del territorio, ha permesso che altri gestissero i flussi migratori, che gestissero il lavoro nero. Allora è chiaro che in questa situazione bastava una scintilla per far esplodere il tutto, e così è stato, era successo anche l'anno scorso. La novità però quest'anno è stata che, ecco, i terzomondiali e gli immigrati hanno reagito con molta violenza, anche perché la voce che si era sparsa era un'altra, non che avevano ferito con la carabina uno di loro, ma che ne avevano ammazzato quattro. Questo per capire la violenza un po' degli immigrati. Ed è chiaro che a violenza segue violenza, e quindi c'è stata una reazione impulsiva dei cittadini di Rosarno. Questa è la prima sera. A questo punto, ecco, il giorno dopo, mentre la stragrande popolazione di Rosarno, ecco, era per i fatti suoi, e quindi stava magari a guardare, gruppi invece di cittadini di Rosarno, probabilmente, ecco, legati o pilotati dalla delinquenza organizzata, hanno fatto la caccia un po' al negro. Mi scusi, don, per avere un po' le misure, gli immigrati sì. Nella piana di Gioia Tauro quanti sono e da dove provengono e quanto tempo si fermano? Allora, gli immigrati di cui stiamo parlando e di cui un po' sono stati i protagonisti della rivolta sono tutti gli immigrati che vengono dall'Africa, e questo tipo di immigrati sono immigrati stagionali, nel senso che vengono nella piana di Gioia Tauro per la raccolta delle arance e dei mandarini. Finita la raccolta delle arance, loro si spostano in Campania per la raccolta dei pomodori, poi vanno al nord per la raccolta delle mele, quindi per la vendemmia, e poi ritornano nuovamente giù. Mi scusi, lei parla di immigrati, stiamo parlando di immigrati clandestini o con regolari documenti di soggiorno? Allora, dalle indagini e anche da quanto ha detto Maroni, ministro dell'Interno, diciamo che la stragrande maggioranza di questi immigrati non erano clandestini, erano con regolare permesso di soggiorno, erano pochi clandestini. Vivevano invece in una situazione di sfruttamento di lavoro nero, ecco, per cui l'irregolarità era soprattutto nella gestione del lavoro. Per cui lei si riferisce agli immigrati che sono stati coinvolti sì, dalla guerriglia? Sì, che sono stati coinvolti, sì. Ho capito. Poi nella piana di Gioia Tauro ci sono altri tipi di immigrati, soprattutto gente dell'est che viene qui, ecco, però quelli abitano in case sparse, abitano anche nei centri cittadini, ma sempre, ecco, non in case, in case malsane. E questa è una categoria un po' a parte. La rivolta invece si riferisce ai cittadini provenienti dall'Africa, quindi ai cittadini di colore. Don Pino, vorrei ritornare a quanto ha fatto il governo, all'intervento, alla reazione del governo successivamente. Lei ha citato prima il ministro dell'Interno Maroni, il quale ha dichiarato che a Rosarno è avvenuto quello che temevamo e ha attaccato le autorità locali e territoriali. Dopo 10 anni senza far nulla, ha detto Maroni, sono nate comunità di extracomunitari che erano delle vere e proprie bombe innescate. E Maroni ha parlato di situazioni che sono state ereditate dal passato e ha detto che lo Stato interverrà nel sud per supplire alle mancanze locali. Ecco, lei come valuta la reazione del governo e questo scaricare la colpa verso le autorità locali, le quali poi ovviamente hanno replicato? Ma credo che Maroni non debba accusare solo le autorità locali, e questa situazione non l'ha ereditata solo dal governo di centrosinistra, ma c'era anche quando c'era il primo governo Berlusconi, perché è una situazione purtroppo quasi ventennale. E allora, ecco, credo che in questa situazione tutti gli organi dello Stato, a livello centrale e a livello periferico, hanno di che battersi il petto. Ecco, è inutile che facciamo a scaricabarile. Mi scusi, lei dicevamo prima che è da anni che segue questi immigrati, lei prima citava, questi sono in maggioranza immigrati che provengono dall'Africa, lei prima citava anche quelli che provengono dall'est. Io mi domando, dopo tutti questi anni che lei segue questa situazione, cosa ne pensa della politica ufficiale di accoglienza, se esiste, prima cosa? Ma la politica ufficiale, sì. E seconda cosa, come si potrebbe fare a migliorare la situazione, visto che, come diceva giustamente Annalisa, il governo non fa altro che rimpallare, che scaricare il barile? Ma in Italia non esiste in questo momento una politica di accoglienza, esiste un problema di pubblica sicurezza verso gli immigrati. E questa è la cosa più sbagliata, perché l'accoglienza va coniugata con la solidarietà, con la giustizia e anche con l'osservanza delle leggi. Non possiamo ridurre il problema degli immigrati a un problema di pubblica sicurezza. E allora è chiaro che se l'aria che spira è questa, noi possiamo anche assistere. Ecco che non era l'episodio di Rosarno, perché l'episodio di Rosarno non è razzismo, perché i cittadini della Piana stanno vivendo da 20 anni, diciamo, con loro, no? Al di là di questo episodio. Ma è chiaro che con un vento che spira non verso l'accoglienza, è chiaro che di quella più tempo passa e più vedremo situazioni di razzismo e di xenofobia. Don Pino, allora la soluzione seria è quella di fare appunto una seria politica di accoglienza. Siamo tutti cittadini del mondo e credo che la chiave di lettura ce l'ha data anche il Sommo Pontefice domenica scorsa, quando ci ha ricordato che gli immigrati, a qualunque nazione appartengono, di qualunque colore siano, sono delle persone a cui dobbiamo garantire i diritti e loro devono avere dei doveri. Don Pino, vorrei ritornare al tema dell'illegalità diffusa che lei ha menzionato all'inizio. Gli inquirenti stanno infatti indagando per cercare di verificare se le violenze scoppiate a Rosarno possano essere state cavalcate dalla 'Ndrangheta per fini che sono ancora tutti da chiarire. E leggevo che il procuratore di Palmi, Giuseppe Creazzo, ha parlato di un'azienda sequestrata lo scorso anno, un'azienda ortofrutticola in cui sono stati arrestati i proprietari e un caporale di nazionalità tunisina che reclutava gli immigrati. Ecco, può, diciamo, cercare di fare più luce su questo aspetto, cercare di spiegare ai nostri radioascoltatori il ruolo della malavita nello sfruttamento degli immigrati? Io credo, ecco, noi dobbiamo partire da una cosa importante, che le associazioni mafiose, oltre a volere raggiungere la ricchezza, cercano consenso, o meglio, per raggiungere la ricchezza hanno bisogno del consenso. E allora di fatto loro sono i padroni del territorio, cioè lo Stato ha lasciato a loro in mano interi territori. Allora, in un territorio come quello della Piana di Gioia Tauro, la 'Ndrangheta, che intende controllare appunto lo stesso territorio, non può ignorare nel bene o nel male la presenza di 2.000-3.000 immigrati. E quindi è chiaro che dopo la reazione iniziale del popolo di Rosarno non poteva non cavalcare tutta la vicenda, perché permettere che gli immigrati fossero i padroni delle strade di Rosarno significava perdere la faccia. Per cui, ecco, saranno gli avvenimenti, saranno le indagini a verificare questo, ma una 'Ndrangheta che non controlla il territorio non è 'Ndrangheta. Pronto? Sì, pronto. Sì, no, io stavo pensando, sì. Stavo rileggendo una dichiarazione, sempre come è già stato menzionato prima, del ministro dell'interno Maroni, il quale sì. ha dichiarato: in questi anni è stata tollerata l'immigrazione clandestina che ha alimentato la criminalità e ha generato... No, non credo, no, non esatto, l'ha alimentato. Quello che io volevo chiedere a lei, secondo lei è l'immigrazione clandestina che ha alimentato la criminalità, no, o no, la criminalità ha usato... La criminalità clandestina che si è servita di questa situazione. Ma non gli immigrati, la stragrande maggioranza degli immigrati è gente per bene, onesta, che è venuta qui a cercare lavoro. Quindi su questo posso garantire tranquillamente. Poi, come in ogni situazione, ci può essere la mela marcia, ma dire che gli immigrati vengano qui a delinquere, questa è la cosa più sbagliata di questo mondo. Il primo gennaio a Polistena, un paese vicino a Rosarno dove vivo io, abbiamo organizzato la marcia della pace e sono venuti, ho fatto venire una sessantina di queste persone. E uno di loro ha fatto la testimonianza ed è stato molto chiaro, ha detto proprio noi non siamo cattiva gente, non siamo dei ladri, non veniamo qui a rubare, veniamo qui a chiedere lavoro, però vorremmo che la nostra dignità fosse tutelata. Una cosa che probabilmente ha scioccato molti italiani è stato vedere le condizioni disumane in cui questi immigrati vivono. Quali sono le misure e le attività portate avanti dalla sua associazione, ma anche dalle altre associazioni laiche e cattoliche presenti sul territorio per migliorare in qualche modo le condizioni di questi immigrati? Sì, il nostro lavoro è stato un lavoro, ecco, piuttosto in termini di assistenza umanitaria e di carità. Forse se abbiamo un mea culpa da recitare anche noi è forse questo, che ci siamo fermati alla carità, all'assistenza umanitaria e non abbiamo gridato forte per che a queste persone venissero tutelati i diritti. Che tipo di attività svolgete? Quali sono in maniera molto pratica? Ma in maniera molto pratica le attività che abbiamo svolto, che abbiamo fatto, creato delle mense per loro, abbiamo provveduto a vestiari, cibo, assistenza medica, assistenza anche, ecco, informativa sui permessi di soggiorno e via dicendo, ecco, però, ecco, di fatto li abbiamo lasciati lì in quella situazione disumana, cioè quindi noi alleviavamo quella situazione disumana, avremmo dovuto fare molta più promozione umana e molto più tutela dei diritti, questa è forse l'autocritica che io mi sento di fare. Don Pino, lei ritiene che fatti come che tristi fatti come quelli di Rosarno si possano ripetere altrove in Italia? Leggo qui parte di un articolo scritto da Vittorio Feltri, direttore del giornale, il quale dice che il rischio è che la rabbia di Rosarno possa essere contagiosa e fare danni in varie altre zone del Mezzogiorno dove l'agricoltura si avvale, tra virgolette, di schiavi africani per essere competitiva e sopperire alla mancanza di manodopera locale. Lei che cosa ne pensa? Ma credo che se effettivamente ci sono situazioni di estrema gravità come quella di Rosarno, aspettiamoci da un giorno all'altro la ribellione, e credo che sia anche giusto. Allora il problema è, per evitare la ribellione, è una politica che tuteli i loro diritti e che sia un'accoglienza che si possa chiamare tale accoglienza. Don Pino, quanto è accaduto in Italia ha suscitato reazioni anche all'estero, l'Egitto ha contestato i fatti di Rosarno, organismi come l'ONU e il Consiglio d'Europa hanno preso posizione. Che cosa pensa di questo? Che cosa pensa del fatto che molti abbiano accusato l'Italia e la Calabria di razzismo? Non condivido questa lettura, perché 20 anni di convivenza con gli immigrati, ecco, mi dicono tutta un'altra storia. Una storia di aiuti umanitari, un aiuto di vicinanza. Anche in quei tristi giorni, mentre, ecco, non parlo della prima sera, il giorno dopo alcuni facevano la caccia al negro, c'erano tante famiglie che invece nascondevano gli immigrati di colore nelle loro famiglie per evitare che andassero a finire in mano a queste persone che giravano con le spranghe. Per cui è un episodio abbastanza isolato, che si inquadra, ripeto, in un contesto di illegalità diffuso, e quindi probabilmente la cosa è stata galoppata, ecco, dalla delinquenza organizzata nella seconda fase. Ma dire che i cittadini calabresi o i cittadini di Rosarno in particolare siano razzisti, questa è la cosa credo più falsa di questo mondo, perché non dà la lettura esatta della situazione. Don Pino, dunque lei vuol dire che la rete di solidarietà è veramente molto diffusa e solida? Sì, la rete di solidarietà è solida, solo che noi dovremmo fare in modo che la solidarietà e la carità diventassero giustizia, perché solidarietà e carità se non diventano un progetto di giustizia rischiano di lasciare il tempo che trova. Don Pino, con questa nota positiva non ci resta che ringraziarla. Niente, della per sua, carità, grazie a lei. Della sua disponibilità. Annalise, qualcosa da aggiungere? No, volevo unirmi anch'io al ringraziamento verso Don Pino. La ringraziamo per essere intervenuto a Giro di Boa. Grazie. E per il suo contributo alla trasmissione di questa sera. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Grazie, alla prossima, buona serata. Buona serata e buon lavoro soprattutto. Grazie. Mandiamo ora una pausa musicale e poi rientreremo in studio con il secondo ospite. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Quindi siete tornati all'ascolto per questa seconda parte di Giro di Boa. Continuiamo quindi con il tema di questa sera. Stiamo parlando e commentando i tristi fatti della settimana scorsa a Rosarno, in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, la rivolta di alcune centinaia di extracomunitari impegnati in agricoltura, che vivevano in condizioni inumane, a fare scoppiare la protesta, il ferimento da parte di persone non identificate di due extracomunitari con un'arma ad aria compressa e pallini da caccia. Come sapete ci sono stati scontri, persone ferite, persone arrestate. Gli inquirenti stanno indagando sul ruolo che la malavita può avere giocato in tutto ciò. Dunque continuiamo a parlare di questo tema e lo facciamo Alessandra con il secondo ospite di questa sera. Sì, esatto, Annalisa, con il secondo ospite di questa sera, che si chiama Rolando Magnano. Rolando, ci sei? Mi senti? Sì, ci sono, vi sento. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie mille per intervenire a Giro di Boa. Dunque, Rolando Magnano è da 2 anni operatore di Medici Senza Frontiere e vice responsabile dei progetti italiani dell'associazione. Rolando è coordinatore dei progetti in Italia, che sono solo progetti che prevedono assistenza sanitaria agli immigrati senza permesso di soggiorno e ai migrati che hanno presentato domanda d'asilo. Dunque con Rolando questa sera cercheremo di capire qual è la situazione un po' dell'immigrazione in Italia e perché Medici Senza Frontiere se ne occupa. Rolando, per tornare un po' magari anche al discorso che facevamo prima con Don Pino De Masi, cosa hai pensato, che sensazioni hai avuto vedendo i fatti di Rosarno la settimana scorsa? Secondo te erano prevedibili in qualche modo? Beh, noi operiamo come organizzazione a favore di questa popolazione di immigrati, intendo quindi questa popolazione che è impiegata nella raccolta del Meridione sin dal 2003. Siamo testimoni delle condizioni di estremo degrado e marginalità che sperimentano, condizioni ovviamente che non posso far altro che alimentare condizioni e sentimenti anche di tensione e di ostilità. Sicuramente quello che è successo a Rosarno è un sintomo di queste condizioni di estremo sfruttamento e marginalità di quel che vive questa popolazione. Popolazione che vive in cascinali abbandonati, fabbriche dismesse, senza acqua potabile, energia elettrica, latrine, smaltimento dei rifiuti. Tant'è vero che la nostra equip medica che interviene con una clinica mobile per in qualche modo prestare loro un'assistenza sanitaria è testimone del fatto che le patologie più diffuse in questa popolazione sono patologie come quelle all'apparato respiratorio, all'apparato ostomuscolare, come mal di schiena, gastroenteriti, ovvero sono patologie legate alle condizioni di vita e alle condizioni di lavoro che sperimentano qui in Italia. Ed è anche un po' paradossale come questa popolazione riesce ad attraversare il Sahara, riesce ad attraversare il canale di Sicilia, perché la maggior parte di loro arrivano in Italia appunto attraverso il canale di Sicilia, approdando sulle coste meridionali dell'Italia, arrivano qui sani e poi di fatto si ammalano. Si ammalano con una frequenza anche preoccupante, considerando che parliamo di una popolazione tra i 20 e i 35 anni, quindi nel massimo della vigoria fisica. Dunque, secondo te, Rolando, era prevedibile, se facciamo un'attenta analisi delle condizioni in cui loro vivono e in cui loro lavorano, dunque un'analisi delle condizioni igieniche e sanitarie, tu dici prima o poi doveva esplodere? È possibile, sì, ovviamente quando le situazioni sono così estreme non si può escludere che prima o poi queste problematiche esplodano con questa forza. Noi abbiamo cercato di denunciare sin dal 2003 queste condizioni, abbiamo pubblicato due rapporti su questo, nel 2004 I frutti dell'ipocrisia e nel 2008 di nuovo un altro rapporto, abbiamo intitolato Una stagione all'inferno, anche evocativo quindi delle condizioni estreme che sperimenta questa popolazione vulnerabile. Ma oltre alla denuncia attraverso i rapporti, abbiamo cercato anche di sollecitare un intervento delle autorità regionali affinché approntassero almeno standard minimi di accoglienza. In modo particolare l'anno scorso proprio a Rosarno abbiamo chiesto alla Regione Calabria di intervenire e di fatto poi le autorità regionali sono intervenute con estremo ritardo e in modo estremamente inadeguato. Leggermente diverso, un esempio leggermente più positivo è quello che siamo riusciti ad ottenere con la Regione Puglia. Quest'anno e anche l'anno scorso la Regione Puglia è riuscita a approntare delle taniche di acqua potabile, allo smaltimento dei rifiuti, delle latrine, anche se obiettivamente siamo ancora lontanissimi dal assicurare dei standard minimi di accoglienza a questa popolazione, che è sicuramente una popolazione vulnerabile e stremata da queste condizioni che vive. Rolando, com'è la situazione nelle altre regioni d'Italia? Ovviamente si sta parlando tanto della Calabria, adesso tu hai citato la Puglia. Ci sono, secondo te, altri casi terribili, così gravi come quelli di Rosarno in altre regioni d'Italia? Assolutamente sì. Noi abbiamo definito, o denominato meglio, appunto il circuito degli stagionali, ovvero alcune migliaia di persone, di immigrati, che nel corso dell'anno si muovono inseguendo le raccolte delle primizie. Comincia a luglio, agosto, nell'area di Castel Volturno, nel Foggiano per la raccolta dei pomodori, continua poi più avanti in Basilicata, nel Metaponto per la raccolta dei meloni, la stagione invernale appunto per la raccolta degli agrumi, e bisogna dire come forse proprio la stagione della raccolta degli agrumi è la stagione più dura, perché è quella che avviene in pieno inverno, e considerando che queste persone vivono appunto in cascinali abbandonati, senza riscaldamento, sono completamente esposte alle intemperie e al freddo che sono normali ovviamente in questo periodo dell'anno. Poi più avanti a primavera in Sicilia c'è la stagione della raccolta delle patate nell'area del Siracusano. Dovunque sono le condizioni che vivono sono sempre le stesse, abbandonati, cercano da bene e meglio di ripararsi, di costruirsi delle baracche, delle capanne con il cartone, le lamiere, le tende. Ci sono in sintesi altre Rosarno in giro per l'Italia. Prima con l'ospite Don Pino De Masi si commentava fra le altre cose la dichiarazione del ministro dell'interno Roberto Maroni, che alcuni giorni fa ha dichiarato: in questi anni è stata tollerata l'immigrazione clandestina che ha alimentato la criminalità e ha generato situazioni di forte degrado. Tu cosa ne pensi? Beh, prima di tutto quest'anno, per quanto riguarda la condizione di Rosarno, mi sembra che lo stesso Ministero dell'Interno abbia divulgato dei dati a proposito delle condizioni dello stato giuridico di queste persone, da cui si evince come gli immigrati senza permesso di soggiorno in realtà siano una minoranza di questa popolazione. Quindi una parte importante di questa popolazione ha un permesso di soggiorno, alcuni di questi sono rifugiati e altri hanno altri tipi di permessi di soggiorno. Inoltre quello che sicuramente va evidenziato poi, indipendentemente poi dal fatto se queste persone posseggono o no il permesso di soggiorno, è che spesso quando si parla di clandestini vi è una criminalizzazione di queste persone, come se queste persone per il semplice fatto di non avere un permesso di soggiorno siano automaticamente autore di reato. Beh, quello di cui noi siamo testimoni è che queste persone in realtà in queste aree dove noi operiamo sono vittime di di reati, sono vittime di uno sfruttamento estremo, che da molti, da tantissimi, e anche sicuramente il governo italiano ne è consapevole, però nessuno ha operato in questo senso. Le responsabilità sono sicuramente diffuse in questo senso, non è solamente il governo italiano, l'autorità regionale, ma anche l'associazionismo, il sindacato, che da anni è testimone di questa condizione, e nessuno ha operato per questa popolazione che è evidentemente è vulnerabile, e non ha interessato nessuno poter promuovere degli interventi a loro favore. Mi riallaccio a quello che tu dicevi prima, quando